uomini di Bengasi hanno tutti un bel nome, mani nude, un cuore d'acciaio, una bandiera da sventolare. Gli uomini di Bengasi domandano giustizia, combattono il tiranno, ci mettono la faccia. Gli uomini di Bengasi hanno perso molti fratelli, cavalcano nel deserto, sono liberi come cavalli. La loro storia non si è fermata sulle dune di chi ha perso la vita. La loro sete è una sete di seta, la loro sete è una strada infinita. Uomini di Bengasi non hanno freddo la notte, quando arrivano da Tripoli per vendere la morte. Uomini di donne e donne che hanno preso il coraggio per mano ed hanno dato un calcio al tempo e si sono ripresi tutto il vento. Gli uomini di Bengasi hanno perso molti fratelli, cavalcano nel deserto, sono liberi come cavalli. La loro storia non si è fermata sulle dune di chi ha perso la vita. La loro sete è una sete di seta, la loro sete è una strada infinita.